con appunto l'introduzione di questo cambio normativo rispetto alla figura degli educatori era necessario insomma chiarire un po' cosa succede alla figura lavorativa dell'educatore e dell'educatrice all'interno del panorama normativo sostanzialmente, quindi andare a capire come la legge viene applicata fondamentalmente negli ambiti in cui l'educatore e l'educatrice lavorano. Questa legge si è conosciuta come ex legge Iori, ci sono alcuni punti che sono come dire oggetto anche di dibattito, leggo ad esempio comma del 594-601, quali sono i problemi maggiori? Intanto all'interno del dibattito dell'incontro pubblico noi cercheremo di portare delle domande per capire come viene implementata la legge. Sicuramente la legge intanto va a modificare o comunque va a integrarsi con quello che è il contratto nazionale delle cooperative sociali, in cui c'è una figura, c'è un inquadramento che è quello dell'educatore senza titolo. La prima domanda che sorge è: con l'introduzione della legge cosiddetta Iori, come va questo a integrarci con l'educatore senza titolo? Cioè tutti gli educatori diventeranno educatori con titolo oppure rimane presente questa figura? Poi sicuramente un altro quesito che viene subito spontaneo è quello legato alle gare d'appalto. Cioè, se nelle gare d'appalto fino ad oggi si è considerato sia l'inquadramento dell'educatore senza titolo sia con titolo, adesso i comuni e gli enti locali cosa faranno? Chiederanno alle cooperative di avere tutti educatori o col titolo, cioè con la laurea o con la qualifica? Altro grande tema poi è quello legato ai costi, cioè la legge dice: se tu vuoi in qualche modo sanare la tua posizione, l'università preparerà un corso specifico da 60 crediti formativi universitari. Ad oggi la legge ci dice che questo costo è in carico totalmente al lavoratore. Questo è per noi un problema, nel senso che già le retribuzioni degli educatori e delle educatrici non sono altissime. Sostenere questo costo può essere un problema. Sono state pensate delle modalità, sgravi fiscali, contributi, fondi europei per sopperire insomma a questo tipo di problematiche. Questi sono un po', possono essere un po' diciamo i macro temi e le macro domande. Poi ovviamente un cambio normativo di questo tipo prevede comunque secondo noi una riflessione e un pensiero da svolgere dopo che la legge è stata approvata. Quindi insomma la legge non prevede, mi pare di capire, una sorta di moratoria per chi già fa questo mestiere, considerando l'esperienza come una formazione sufficiente per ottenere il titolo? Diciamo che la legge prevede una moratoria da svolgere all'interno dell'università, cioè la legge dice: tu hai una serie di requisiti che sono previsti all'interno della legge, ad esempio avere un diploma di scuola superiore magistrale acquisito entro il 2000-2001 o avere una serie di anni di lavoro all'interno diciamo dell'inquadramento come educatore, allora puoi partecipare ai corsi, a questi 60 CFU messi in piedi dall'università. Gli unici che diciamo automaticamente ottengono la qualifica a fronte appunto della legge cosiddetta Iori sono chi ha 20 anni di servizio, almeno 50 anni di età o almeno 20 anni di servizio. Queste figure ottengono automaticamente la qualifica. Per tutte le altre si pone la questione di partecipare a questi costi. Ovviamente la legge tutela chi già fa l'educatore e dice: non puoi essere licenziato anche se non fai il corso universitario, però comunque il problema per le cooperative si porrà, perché se i comuni vanno a fare delle gare d'appalto in cui chiedono o la laurea o la qualifica, gli educatori si devono in qualche modo adattare e le cooperative a questo nuovo sistema, e quindi bisogna fare i 60 CFU, bisogna prendere questi 60 CFU però a proprio carico. Tu prima dicevi: faremo delle domande perché interverranno in questa assemblea proprio la senatrice Vanna Iori, che è la prima firmataria. Esattamente, noi abbiamo invitato tutta una serie di soggetti a portare un intervento, tra cui appunto la senatrice Vanna Iori, che ad oggi ci ha detto che dovrebbe riuscire ad esserci, nel senso che è incastrato un po' con tutto quello che è la partenza della nuova legislatura, ma ci ha promesso insomma che dovrebbe riuscire ad esserci. Abbiamo invitato l'università perché appunto deve preparare, sta preparando quelli che saranno i corsi a cui dovranno accedere gli educatori diciamo senza titolo per ottenere i 60 CFU, e abbiamo invitato a intervenire anche la Lega Coop in quanto organizzazione che in qualche modo raccoglie tutte le istanze delle cooperative. Poi ovviamente essendo un dibattito pubblico aperto a tutti abbiamo invitato i sindacati, le cooperative stesse insomma a portare un loro pensiero e un loro contributo a questo dibattito. Noi sicuramente pensiamo che la legge sia in qualche modo una svolta che va a riconoscere una professione che fino ad oggi era poco riconosciuta in termini normativi. Sicuramente i commi che sono stati approvati nella legge di bilancio sono restrittivi rispetto a quello che era l'impianto della cosiddetta legge Iore, nel senso che sono state tolte alcune parti che noi crediamo importanti, come tutti quegli aspetti che andavano a in qualche modo a legiferare sulle competenze, sulle professionalità degli educatori. Però comunque è un primo passo su cui bisogna riflettere per apportare dove c'è bisogno dei cambiamenti e delle integrazioni. Ecco.